viviamo, viviamo nell'eti codici che la bellezza infiora e là fuggevo, fuggevo ora si deria voluta liviane i dolci freddi che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente va Misterioso Thank you. Oh!

Ma il dottore aspera Oh, me. C'è Sarno. Gli spasimi del dolore. In me rinasce. Rinasce. Magica. Insolito di cuore. Ah, ma io. 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有限调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场。刚才我们听到的是威尔第的歌剧《茶花女》当中的精彩选曲。下面让我们分享几首经典的芭蕾舞音乐。亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的选曲，由理查德·布宁格指挥伦敦交响乐团演奏。